La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. È il giorno della verità, secondo molti, per il Movimento 5 Stelle. I parlamentari di Grillo decideranno infatti nel tardo pomeriggio il destino politico della cosiddetta dissidente Adele Gambaro, che, ricorderete, dopo le amministrative aveva addossato la responsabilità del flop elettorale all'ex comico e ai suoi toni. Il Movimento si presenta comunque diviso, c'è chi chiede l'espulsione della Gambaro, chi invece lavora per far rientrare il caso. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. La stessa Gambaro poco fa in una riunione al Senato ha fatto capire di non avere problemi con gli altri senatori ma di averne con chi è fuori, chiaro il riferimento a Grillo. Ascoltiamo allora questo breve passaggio colto dallo streaming del gruppo proprio 5 Stelle. È chiaro che io ho espresso il mio disagio sui toni di questa comunicazione. Ovviamente il mio lavoro qui, io sono molto contenta di farlo, ho dei colleghi con i quali mi trovo molto bene e stiamo facendo un ottimo lavoro, quindi il disagio è la comunicazione all'esterno per quanto mi riguarda. Niente dimissioni quindi per la senatrice Gambaro, vedremo cosa decideranno però i parlamentari 5 Stelle che si riuniranno alle 18. Il caso Gambaro dunque agita la rete, per molti del 5 Stelle, come spesso accade però, è un fatto. Questo marginale alla politica, le priorità insomma sono altre e PD e PDL nascondono le loro responsabilità dietro a queste polemiche. Quanto ha detto di fatto oggi in aula la deputata 5 Stelle Carla Ruocco, sentiamo l'intervento della Ruocco. Abbiamo appoggiato un emendamento per abolire totalmente l'IMU, ma è stato bocciato. Voi che sbandierate l'abbattimento fiscale nei talk show di regime, abbiamo proposto di estendere la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili del gruppo catastale D, che include quelli ad uso produttivo, ma voi l'avete impedito. Abbiamo proposto almeno di bloccare la rivalutazione catastale degli stessi immobili ad uso produttivo, ma voi vi siete dichiarati contrari. Voi, responsabili del disastro, voi del PDL e del PD che fingete pure di essere i tutori e i difensori dei piccoli imprenditori, siete contrari e contrariati dalle nostre proposte. Salvo a tratti copiarle, come quella sull'impignorabilità della prima casa, che ricalca un nostro progetto di legge, prima da voi ignorato e poi ripescato per meri scopi elettorali. Abbiamo proposto l'immediata abolizione dei truffaldini rimborsi elettorali, ma voi muti. Abbiamo chiesto di rivedere gli apparati degli enti inutili, veri e propri bacini di voti, dei quali non si conosce neanche il reale numero. Le spese militari, solo per citare il Forza NEC, colossale piano di digitalizzazione dell'esercito, 22 miliardi di preventivo, roba da far impallidire quanto preventivato per l'acquisto degli F-35. Ma voi ciechi. Abbiamo chiesto maggiore trasparenza sui redditi e i patrimoni dei politici, ma voi nulla. Abbiamo proposto che questi evidenti risparmi confluissero in un fondo per il sostegno alle microimprese. Vi abbiamo chiesto di parlare degli sprechi, quelli veri, di discutere le assunzioni temporanee di vostri amici consulenti e di quelli per chiamata diretta dei vostri obbedienti dirigenti, ma voi impassibili. Questo produce casta, consente il radicamento della casta, la vostra casta, immobile ed inamovibile, che determina l'esatto opposto della tanto strombazzata meritocrazia e riproduce se stessa con tutti i privilegi e gli onori possibili e immaginabili. Queste le parole di Carla Ruocco in aula qui alla Camera. La Ruocco quindi rivendica almeno la fase propositiva del Movimento 5 Stelle rispetto all'immobilismo di PD e PDL, insopportabile Grillo è fuori dalle Camere, detta diktat, ci scrive Silvia da Pordenone, ma comunque al di là di come la pensiate esistono comunque dei mal di pancia all'interno del Movimento 5 Stelle, a questi sembrerebbe guardare parte del PD, anche Sinistra Ecologia e Libertà, almeno forse per un ipotetico cambio di maggioranza. Ne aveva parlato la scorsa settimana Bersani, su questo punto è tornato oggi Stefano Fassina del PD, ascoltiamo. Bersani ha solo fotografato una evoluzione del quadro parlamentare e ha messo in guardia quelli che nel PDL un giorno sì e l'altro pure minacciano elezioni, che le elezioni non sono uno scenario scontato data l'evoluzione del quadro parlamentare. Così fascina PD, non si tratta di cambiare l'attuale maggioranza, commentano invece da Sel, quanto di vedere se su alcuni argomenti vi possono essere convergenze nuove. Abbiamo incontrato allora il capogruppo alla Camera di Sinistra Ecologia e Libertà, Gennaro Migliore, sentiamo. Il percorso delle riforme nel momento in cui si avvia non dovrà essere vincolato al governo, sarebbe un errore nei confronti del Parlamento. La sovranità della riforma costituzionale è tutta parlamentare e quindi in questo senso non c'è una connessione diretta. Ritengo che invece l'importante sia decidere che cosa fare. Io non sono per fare il gioco del risico, sposto le armate da un lato all'altro della scacchiera. Noi dobbiamo intervenire su alcuni provvedimenti. Su alcuni provvedimenti sicuramente il centrodestra farà le barricate, su quelli sui diritti civili, quelli sul conflitto di interessi e anche quelli a sostegno dei lavoratori. Se su questo si determinasse una nuova maggioranza, io non ci vedrei nulla di strano, anzi lo vedrei come un rispetto della volontà degli elettori. Possibile che in campagna elettorale fosse la legge elettorale la priorità, adesso invece è l'architettura dello Stato? Perché c'è qualcuno che mente. Noi l'abbiamo sempre detto, abbiamo anche presentato una proposta di legge, una mozione in aula che è stata ritirata in nome del fatto che altrimenti si metteva a rischio il governo. Io penso che agli elettori non si può mentire più. Dobbiamo dire, soprattutto quelli che la stanno bloccando, che cosa succede in alternativa. Dire che si fa alla fine del percorso di riforme significa tenersela. Questo è bene che tutti lo sappiano. Noi abbiamo lottato perché ciò non accada, siamo all'opposizione anche per questo motivo. Credo che l'ipocrisia sia una cattiva consigliera per la politica, in particolare in questo caso. Così Migliore di Sinistra Ecologia e Libertà, che invita alla calma anche per quanto riguarda eventuali argomenti di possibili nuove convergenze a cui aveva fatto riferimento Bersani. La posizione di Sinistra Ecologia e Libertà è più per confluenze su singoli argomenti, di qui quindi il riferimento ai possibili dissidenti del Movimento 5 Stelle. Voltiamo decisamente pagina, anticipiamo brevemente un tema economico che sarà sicuramente approfondito da Focus Economia, tema molto dibattuto qui in Parlamento, l'IMU, l'IVA, sappiamo l'intervento, se non ci saranno altre novità ai primi di luglio. Per quanto riguarda il Popolo della Libertà è necessario che non si aumenti l'IVA. Sentiamo su questo il capogruppo Brunetta. L'IVA non deve aumentare a luglio, dopodiché che ci siano sul campo i problemi dell'occupazione giovanile lo sappiamo tutti, ci sarà un decreto penso nei prossimi giorni cui tutti ci dedicheremo. L'una cosa non esclude l'altra, l'IVA a luglio non deve aumentare, ne va della esistenza della nostra economia, bisogna fare i provvedimenti per l'occupazione giovanile, questo è l'impegno del Presidente Letta, e bisogna cancellare l'IMU sulla prima casa. Si devono fare tutte queste cose, si devono fare tutte insieme, i governi servono per risolvere i problemi, non per descrivere le preoccupazioni o sperare in miracoli. È inaccettabile che non si trovino gli 8 miliardi che servono per l'IMU ed evitare l'aumento dell'IVA, scrive Silvio Berlusconi. Con questa notizia vi saluto, un saluto da Vincenzo Miglietta.